9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E c'è andato in galera Fiorito, c'è andato, c'è andato. E cosa ha detto? Ha iniziato a dire la verità. Appena varcato, ha detto: meglio qua che nel PDL. Fiorito ha iniziato a dire la verità. Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore. E con la bella sotto braccio ne escono i deputati. L'avete vista la notizia? Hanno votato il bilancio alla Camera, ma non hanno toccato i vitalizi. Altro che con la bella sotto braccio. Avete visto? Coi soldi dell'IMU vanno in vacanza e si prendono gli aerei, come Fiorito e come diceva il vecchio Bracardi, in galera. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. E si potrebbe sì sperarlo in un mondo migliore, ma come facciamo a vederlo con questi miserabili pitocchi che continuano? Dice che Berlusconi non si vuole candidare più perché ha perso troppi voti. E sapete qual è l'ultima? Che la colpa non è sua, è degli altri del partito. Vengo anch'io, no, vengo anch'io, no, vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Va bene, alcuni ci hanno rimproverato in questi giorni di fare questo inizio un po' da van spettacolo, però ragazzi guardate che la van spettacolo purtroppo triste, non riuscito, di quelli che non fanno ridere intorno a noi nel paese. Allora, buon mercoledì 3 di ottobre, un augurio a coloro che festeggiano il santo. Oggi è San Gerardo di Brogne, quindi aiuto, auguri a chi festeggia San Gerardo. Un altro pensiero ai poveri milanesi che ieri hanno dovuto strisciare sotto le saracinesche per riuscire non tanto a prendere una metropolitana, c'era sciopero, quanto a uscire dalle stazioni dove erano stati imprigionati. Questo ci dà l'idea di come siamo messi di fronte a un settore pubblico che, oltre a essere depredato, dilapidato dalla politica, eccetera, eccetera, non riesce neanche a impedire che non prendi i treni, ma rimani pure prigioniero di una stazione in cui non hai preso il treno, cioè non vai a lavorare dove devi e non riesci neanche più a uscire dalla stazione. Mi sembra una buona fotografia delle condizioni in cui si riduce un paese in cui l'inefficienza del settore pubblico, ma non solo quello ovviamente, è diventato un limite pressoché invalicabile per una cosa che in realtà è fondamentale nella nostra civiltà, della modernità, della democrazia. Stiamo parlando dei diritti ed è proprio ai diritti che dedichiamo questa trasmissione oggi di questo 3 ottobre. Perché i diritti? La scusa è che c'è un convegno molto importante organizzato in questi due giorni a Roma, è un convegno internazionale ed è un convegno internazionale in cui c'è un programma ad animare in senso internazionale questa Cross Atlantic Global Summit a Milano, è una fondazione internazionale nella quale è impegnato il nipote, non so se avete visto il film del 2008 con Sean Penn in cui si parlava di Harvey Milk. Harvey Milk è un martire vero perché fu ucciso con una pistolettata in testa. un uomo pubblico che negli Stati Uniti si è battuto per i diritti dei gay e degli omosessuali e più in generale per i diritti di libertà. E quando poi dopo molti tentativi riuscì a essere eletto consigliere comunale a San Francisco, un consigliere comunale che era stato spodestato da lui, pensò bene di piantargli una pistolettata in testa. E suo nipote Stuart Milk anima un'iniziativa internazionale sui diritti e le diversità, e in questi due giorni a Milano ci sono tanti accademici italiani, internazionali, uomini della politica che si interrogano proprio sul punto di quali, in questo mondo, a me viene a dire in questo paese, quali siano i diritti più fondamentali intorno ai quali richiamare le priorità, per così dire. Quindi ci sono diversi approfondimenti, uno sullo sviluppo economico e sull'inclusione, uno sull'istruzione e l'educazione, c'è un forum sul diritto alla salute, c'è un forum che richiama direttamente all'impegno per i diritti sulla sessualità che costarono la vita ad Harvey Milk. Abbiamo pensato di in realtà balzare in groppa a questo evento per chiedervi e per chiedere agli ospiti di oggi, in questa confusa Italia e in questa confusa Europa, quale sia il diritto da considerare, per così dire, prioritario, quello sul quale, come in una pietra angolare, cominciare una rilettura e una ridefinizione per mettere a posto le cose nel nostro paese. E tra l'altro questa iniziativa ha avuto il merito di chiedere a molti dei protagonisti in questi due giorni quali considerino a loro giudizio il diritto fondamentale. L'hanno chiesto persino a me, ma non è naturalmente da me che bisogna partire, io sono buon ultimo. E devo dire naturalmente che le risposte degli intellettuali, degli accademici, dei politici italiani su questo sono le più varie e diverse. Allora, cominciamo a chiedere innanzitutto ai nostri ospiti, a loro giudizio, quali sia il diritto fondamentale da cui ricominciare. È collegato con noi Stefano Rolando, che è professore allo IULM, insegna teorie tecniche della comunicazione pubblica e politiche pubbliche per le comunicazioni, e nel programma del convegno di questi due giorni tiene una lezione magistralis dedicata proprio all'istruzione, all'educazione e a questo, quindi, diritto all'inclusione. Buongiorno al professor Rolando. Buongiorno a tutti voi. Ed è in studio con noi l'impagabile, l'imbattibile, responsabile dell'inserto più bello culturale che ci sia in tutta la stampa italiana, quello del Sole 24 Ore, ma è bello non perché sia del sole, è bello perché è bello, come diceva un tempo il vecchio, e quindi è con noi Armando Massarenti. Buongiorno e grazie Armando. Buongiorno, grazie a te. Che è in studio, quindi la sua voce è come sempre più calda e sensuale della mia, maledizione. Allora, Stefano Rolando, da che diritto bisogna ripartire in questo paese un po', per così dire, a rotoli, per così dire, secondo lei? Ma certo, ognuno ha la sua visuale, ognuno vede, tira la coperta sui diritti che sente più propri. Io credo che nel nostro paese, che ha tendenzialmente buone leggi, buone basi costituzionali e poi in realtà leggi male applicate e male governate, il diritto fondamentale sia un diritto di cornice, cioè il diritto di avere, di vedere rappresentate e dar voce alle minoranze, cioè alle diversità. In fondo, dietro ai diritti civili c'è prima di tutto un problema di minoranza, perché se no non sarebbero diritti da reclamare. E l'Italia è un paese che non ha seguito delle vie virtuose nel rapporto tra maggioranza e minoranze. Noi abbiamo dei paesi in cui chi vince, cioè chi è maggioranza, governa, e chi perde, cioè chi è minoranza, controlla. Se così fosse stato... Ma mi faccia capire meglio, lei ha detto diritto alla cornice, per non pensare che sia quello di una bella tela... No, ecco. Io dico il diritto di avere rappresentanza e dare voce, perché questo è fondamentale rispetto all'insieme dei diritti civili che possono essere rappresentati e aver voce oppure no. E quindi credo che sia un diritto cornice, nel senso che è una garanzia costituzionale che le minoranze abbiano il diritto di avere voce e di essere rappresentate. Dopodiché c'è dentro la salute, c'è dentro la diversità di genere, c'è dentro i diritti sessuali, c'è dentro i diritti all'istruzione, c'è dentro il diritto alla pari alle pari partenza, ai pari punti di partenza. Senta Rolando, uno dei temi di fondo della discontinuità italiana politica è evidente, perché nella storia della Seconda Repubblica e della Prima Repubblica non è mai avvenuto che a pochi mesi da un appuntamento elettorale ci fossero 17-18 milioni di italiani che si dividono tra il non voto e la protesta ancora. Certo. Ed è uno di questi temi, tocca esattamente quello che lei adesso ha richiamato, cioè il limite insuperabile ormai, costitutivo, che appare agli occhi di tanti italiani del delegare alla pura rappresentanza politica, un voto ogni 4-5 anni a diversi livelli, il compito di rappresentare la complessità della pluralità dei ruoli che ciascuno ricopre nella società, di consumatore vessato, di lavoratore che non ha accesso se giovane e così via, in un puro voto di delega politica. Quindi questo diritto alla rappresentanza in una società complessa in cui poi a esercitare la rappresentanza politica sono minoranze pro tempore molto, come si vede, concentrate sul prendere per sé. Con quali strumenti si può realizzare? C'è chi dice la vecchia teoria della rappresentanza è tutta sbagliata, usiamo la rete dal basso, ridefiniamo tutte le logiche istituzionali. Lei che dice? Come si fa in un mondo di vecchia rappresentanza a rappresentare tutto ciò che è sempre più complesso e policentrico? Ma mi vengono in mente due cose. La prima è che oggi la democrazia rappresentativa non basta più. Tant'è vero che quando l'Europa ha tentato di darsi una carta costituzionale ha cercato di normare con pari forza le due grandi volè della democrazia: la democrazia rappresentativa, quella per la quale diamo un voto se lo vogliamo dare e aspettiamo 5 anni per giudicare, e la democrazia partecipativa, che è fatta di una complessità di opportunità di dire la propria, di essere ascoltati, di poter avanzare, diciamo, ipotesi anche nel sistema della co-decisione, pezzo per pezzo, non aspettare i 5 anni, che naturalmente è la più complessa, è la più antica ed è anche la più complessa delle democrazie, che va non solo scritta in decreto, va coltivata, deve diventare cultura, deve diventare una domanda sociale. E qui è il secondo problema: perché c'è poca democrazia partecipativa? Perché c'è poca domanda sociale. Qui non è solo colpa della politica, perché la politica, noi diciamo sempre la mala politica come se fosse una cosa che ci piove dal cielo, ma la politica è anche il risultato di una domanda. Quando noi abbiamo in Italia, dato Ipsos, che 2/3 degli italiani sono contro il recupero dell'evasione fiscale, noi abbiamo una domanda di mala politica. E di chi è colpa? Sempre della politica, e in questo caso dobbiamo dire che è anche colpa di noi cittadini, che non abbiamo sviluppato in maggioranza un'opinione che oggi permette di avere democrazia compiuta. Io su questo, a dire la verità, Rolando, la penso un po' diversamente. Cioè, io penso che in realtà sì, le colpe siano dal basso, ma i meccanismi attraverso i quali chi esercita la rappresentanza si è dato un ambito sempre più ampio in cui poter pescare sempre più per sé. Famosa teoria di questi anni dei politici. Questo non c'è dubbio alcuno. No, perché gli italiani, a furia di non vedere il retrocesso, un solo euro da lotta all'evasione, dicono se prendete solo per voi. È un po' questo, ecco il punto. Però a furia di dare la colpa ai politici, i cittadini si mondano e pensano di essere al di fuori di un problema critico. Se fosse così, gli italiani sarebbero rabbiosi, perché Freedom House da alcuni anni mette l'Italia in condizioni di semi-libertà di informazione. E invece non vola una mosca nel nostro paese. Perfetto. Allora, il professor Rolando ci deve abbandonare perché deve iniziare la lezione, e noi lo ringraziamo per essere stato con noi. Sentiamo Armando Massarenti, di fronte alla domanda di quale sia il diritto prioritario ai suoi occhi, eccetera eccetera, ha dato una risposta che casualmente, non ci eravamo parlati, coincide anche con la mia, e ha scritto domenica proprio su questo. Ed è, attenti a casa adesso, non equivocare, non mettete mano subito al cambio di programma perché dite eccoci qua, adesso ci fate la lezioncina da vecchi liberali, non è quello il diritto fondamentale attaccato nel nostro paese, bensì invece proprio sì, perché quel diritto è, Armando, qual è? È il diritto di proprietà. Proprietà. Ecco, allora io perché ho scelto questo diritto? Ma io l'ho scelto, diciamo, da filosofo politico innanzitutto, perché è il diritto veramente fondamentale attraverso il quale noi possiamo definire tutti gli altri diritti, anche quelli che magari un libertario doc riterrebbe troppo socialisteggianti, e peraltro comunque non escludendo quel diritto alla partecipazione politica, che è altrettanto importante, altrettanto fondamentale e non in contrasto con il diritto di proprietà. Insomma, il diritto di proprietà significa molto semplicemente che noi dobbiamo partire dagli individui, considerare la società composta di individui e che tutto il resto è responsabilità degli individui, di come si comportano e del modo in cui possono gestire e sanno gestire le interazioni sociali dalle quali poi nascono le istituzioni. Questa è la vecchia idea della scuola austriaca in economia, che poi ha prodotto un certo radicalismo, diciamolo, dei libertari americani già negli anni 60-70, che questi libertari americani reagivano rispetto a un'altra forma di radicalismo politico, che era quello della sinistra americana. Però non bisogna ragionare in termini di destra-sinistra, bisogna ragionare in termini di fondamentali di una filosofia politica che voglia fare un esercizio serio su che cosa, su come si organizza la società, su qual è l'ordine sociale che noi vogliamo. E se non partiamo dagli individui, se non ci poniamo quella domanda provocatoria che si poneva David Friedman, non chiederti che cosa tu puoi fare per lo Stato, per la nazione, ma chiediti che cosa lo Stato ti sta facendo, ecco, a partire da questa domanda noi possiamo ripartire con le nostre responsabilità. Allora, ti interrompo un secondo per ricordare a chi è in ascolto che l'esercizio di questo fondamentale interrogativo, non chiedetevi, io lo traduco su Kennedy, che è quello che di solito ci viene citato nel dibattito italiano quando vi dicevano, come sempre, non chiedere quello che lo Stato fa per, quelli quello che tu puoi fare per lo Stato, sbagliato, chiedetevi quello che lo Stato vi sta facendo. Allora, con l'approvazione del bilancio di ieri alla Camera dei Deputati, la Camera dei Deputati, malgrado tutte le chiacchiere della politica, continuerà a essere gravata per i prossimi 20 anni, ripeto, 20 anni, cari topolini contribuenti a casa, 20 anni, iniziate ad aprire il portafoglio, per 20 anni non scenderà sotto i 140 milioni di euro l'anno, 140 milioni di euro l'anno moltiplicata per 10, fate il conto di quanto è 140 milioni per 20 anni, ok? Vedete quanti miliardi sono? Vitalizi, vitalizi dei deputati. Questo è perché loro sono all'osso e avrebbero compresso tutto il comprimibile. Dopodiché, nello stesso bilancio, gli stipendi di chi svolge un lavoro impiegatizio amministrativo a qualunque titolo e livello nella Camera dei Deputati, come confermato dal bilancio di ieri, continueranno a essere pagati 5 volte, ripeto, non ho sbagliato il numero, 5 volte ciò che nella media del mercato del lavoro italiano, di noi poveri reietti non dipendenti dalla sovrana amministrazione della Camera dei Deputati, non sottoposta al vaglio della Corte dei Conti, continueranno a essere pagati 5 volte, a parità di titolo e di grado, di quello che avviene nel mercato del lavoro. Allora, l'esercizio del diritto di proprietà imporrebbe che gli italiani, di fronte a questa roba, per così dire, prendessero alcune di quelle elementari iniziative che prendono gli elettori contribuenti americani quando cacciano la gente e cambiano il segno politico delle cose. Da noi, diciamo, siamo un po' più lenti, vedremo se questa volta avverrà. Però 140 milioni per 20 anni ogni anno per i vitalizi è una cosa di fronte alla quale farvi i conti in tasca. Dice, ma è populismo, è una cosa di barbarie americana, perché bisogna difendere il modello europeo. Questo non è il modello europeo, questo è il modello di una, a meno che per modello europeo non si prenda per imitazione il perfezionamento di quello che Bonnie e Clyde facevano con le armi. Erano americani, quello lo facevano con le armi, in Italia invece lo abbiamo realizzato con le leggi, la spoliazione pubblica. Quindi il diritto di proprietà è una fondamentale ridefinizione, perché chiama una cittadinanza molto, molto, molto, molto, molto attiva. Noi siamo abituati a considerare quello che dice in una sua storica frase Aung San Suu Kyi, la oramai mitologica, grandissima donna che ha da sola animato un movimento per decenni contro i militari in Myanmar, nell'ex Birmania, diceva Aung San Suu Kyi che all'interno di un sistema che nega l'esistenza dei diritti fondamentali, la paura tende a essere all'ordine del giorno. Attenzione che i diritti umani fondamentali, certo, sono i diritti di libertà, sono i diritti di espressione, sono i diritti al pluralismo. Dimenticare che però il fondamento di tutti questi diritti naturali dell'uomo è la proprietà significa arrendersi a un'idea in cui il politico pro tempore vi spiega che lui può dilapidare, lui può depredare, il pubblico non può e non deve rendere conto, come la Camera dei Deputati che non rende conto, voi sì, e siete voi che dovete vergognarvi, perché dovete dare di più, e se non lo fate è perché in voi che risiede il vizio, siete voi il tarlo anomico della società, e voi avete una colpa in realtà nel farvelo dire, perché vi siete dimenticati, vi siete fatti spogliare di questo dirittino alla proprietà che secondo me Armando Massarenti ha avuto il merito di ricordarvi. Eccoci tornati qui in studio, 9:35, 17 secondi per chi ci ascolta in diretta, e un saluto anche a chi ci ascolta in replica la sera. Stiamo parlando di diritti, perché ci stiamo occupando di diritti? L'occasione è questo convegno convegno internazionale, questo Cross Atlantic Global Summit, che domani e dopodomani inizio dei lavori alle 14 alla Sala Alessia a Palazzo Marino, sono lavori aperti, cioè domani pomeriggio e dopodomani, fa il punto con esperti, accademici, uomini d'impresa italiani e internazionali sulla stringente priorità di ricentrarci sulla difesa e sull'identificazione di diritti fondamentali. Non è affatto vero che noi siamo nelle società avanzate di fronte alla complessità di rappresentanze che non trovano più sbocco nella politica, tantomeno in quella dilapidatrice italiana, in condizione di dire di avere soddisfatto il pluralismo di diritti davvero tutelati e garantiti. E ne abbiamo una qualche evidenza nel nostro paese, in cui abbiamo condannato generazioni intere a una asimmetria di tutele e di partecipazione al mercato del lavoro, in cui continuiamo per esempio ad avere bassissimi tassi di partecipazione femminile al mercato del lavoro e più alti picchi di lavoro medio orario e quotidiano, scusatemi, lavoro medio quotidiano delle donne, sommando il lavoro non retribuito che fanno a casa, perché gli diamo tutto il welfare di prossimità e parentale sulle spalle, dicendo meglio così, è meglio che lavori meno e così lavori di più a casa. L'esatto opposto ovviamente, la società in cui funziona meglio il welfare parentale e la curva demografica non va più in giù come da noi, dove a picco, sono esattamente quelli in cui il diritto al lavoro della donna è quello che si declina con la conciliazione dei tempi di lavoro. Allora, potete dire la vostra, oltre che telefonando qua, andando sul sito www.all-all, per chi non sapesse che all vuol dire tutti in inglese, .it, quindi www.all-all.it, oppure andando su Facebook e cercando All Italia, e potete a vostra volta lì esprimere qual è il vostro diritto preferito. Tra le personalità a cui l'hanno chiesto in questo convegno ci sono delle risposte che sono le più varie e diverse. Cominciamo con quello di un giornalista e scrittore, Edoardo Caburri, che dice che il diritto che lui preferisce è quello a non finire in galera, cioè come Fiorito. È la mia anima libertaria, dice. Trovo assurda e inconcepibile, dice Caburri, la semplice esistenza delle prigioni. Come diceva paradossalmente Benjamin Constant, meglio qualche boia piuttosto che molti carcerieri. Però alla fine vedete che se dite meglio qualche boia, il paradosso è il paradosso fino a un certo punto, perché io sono contro la pena di morte. No, io credo che ci voglia in una società, magari non per ogni reato, e soprattutto non deve essere un carcere in cui finiscono i meno tutelati come in Italia, mentre invece i colletti bianchi, se sono il partito di Berlusconi, hanno avuto legge ad hoc. Perdonate, ma è questa la giustizia che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Oppure vediamo qualche altra risposta. Beh, Giulio Enea Vigevani, che segna la Bicocca di Milano, dà una risposta un po' così satirica, perché dice: il diritto fondamentale, quello all'oblio per far dimenticare il monte di idiozie che facciamo ogni giorno. Beh, vabbè. Allora, dice Francesca Planeta, imprenditrice siciliana, grandi vini, il diritto a un sistema scolastico di eccellenza è quello che preferisce lei, in grado di essere inclusivo ma anche di promuovere il merito, è il più potente strumento possibile di coesione sociale e di sviluppo economico. Anche se espresso con qualche venatura di politically correct, gli imprenditori italiani hanno sempre paura di dire le cose taglienti, sono completamente d'accordo. La formazione del capitale umano con una scuola centrata sul merito e non concepita per chi ci lavora, come in Italia, quella sì che è una maniera per tutelare i diritti che nel nostro paese non sono invece garantiti. E con noi a questo proposito si è aggiunto un altro ospite, il professor Adriano Battistella, che insegna lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità alla Ca' Foscari di Venezia, e che interviene domani nell'ordine dei lavori proprio nel blocco dei diritti che si occupa di quelli sociali e del lavoro. Buongiorno professor Battistella. Buongiorno a lei. Certo, in una società che ha spaccato asimmetricamente le regole delle tutele del mercato del lavoro, come le riforme previdenziali, dicendo a chi era più giovane, beh, cavoli tuoi, i regali che ci sono stati per decenni per gli altri e che continueranno per anni in tutto il loro orizzonte vitale, per te non ci sono più, ha una bella maniera di praticare il diritto all'inclusione, o no? Ma è una pessima maniera. Io credo che ci sia anche all'interno di questo un pessimo modo un problema generazionale. Noi stiamo per assistere a un problema di questo tipo. Abbiamo i cinquantenni che nella riforma Fornero sono stati particolarmente penalizzati. Non capisco, tra l'altro, difficile capire perché ci sia stata una penalizzazione di una certa tipologia di persone, che sono le persone, le donne, perché noi sappiamo che tendenzialmente l'assistenza è in mano alle donne, che erano nella logica normale del procedere delle generazioni chiamate a fare quello che poco fa lei diceva: la famiglia si occupa, lo Stato fa un passo indietro sull'assistenza, i diritti delle persone anziane, i diritti dei più piccoli, i diritti delle persone disabili vengono portati un po' a livello familiare. E adesso cosa vedremo, cosa succederà? Avremo delle difficoltà molto forti, io non ne ho sentito grande parlare in giro, per cui avremo di qui a qualche anno, presumibile, ma tutte le persone che si occupano di questo ne sono consapevoli, una situazione per cui lo Stato fa un passo indietro, la famiglia non può fare un passo avanti e avremo dei diritti elementari, il diritto proprio a essere accudito, che sono lasciati non si capisce bene in mano a chi. E oltretutto con lo Stato che invece di incentivare fiscalmente picchia in testa il terzo settore, gli ha promesso per anni 5 per 1000 e poi ogni anno ha stentato a darne la copertura senza fare uno strumento strutturale, subordinandolo a saldi pubblici e quindi limitando di fatto anche il canale privato di finanziamento a chi si propone proprio di fare queste cose nel terzo settore. Mi consente di farle una domanda. Noi viviamo in un mondo, in un orizzonte tradizionale nel quale l'eguaglianza è un'eguaglianza appunto che tollera poche eccezioni per essere davvero considerata tale. Quella dell'articolo 2 e 3 della nostra Costituzione, i fondamenti economici dell'eguaglianza. Però la domanda che le faccio io, che mi sono un po' convinto della cosa che le sto dicendo, ha senso continuare per esempio a considerare i lavoratori tutti uguali per quello che riguarda l'imposizione sui redditi, i contributi che devono pagare, quando di fatto abbiamo già disegnato un orizzonte di regole nelle quali non è affatto vero che sono così, cioè chi è giovane, chi è donna, se poi è giovane donna meridionale peggio mi sento, in realtà non è affatto uguale a un lavoratore che sta col contratto a tempo indeterminato e che è più avanti nel proprio percorso lavorativo. Domanda: ma non sarebbe meglio ridefinire il diritto all'eguaglianza, anche il terribile diritto all'eguaglianza, in maniera tale che ai giovani noi gli pesiamo meno fiscalmente e contributivamente e poi più avanti nel loro percorso, visto che hanno meno tutele da giovani oggi, accettiamo l'idea di far salire anche la pretesa fiscale contributiva? Non è una maniera di prendere atto che non è affatto vero che siamo tutti uguali, come l'aspirazione all'eguaglianza in teoria negli anni dell'affluenza tendenzialmente tendeva a realizzarle, ma oggi non è più così. Non bisogna smontarlo il concetto del diritto di eguaglianza. Sono sostanzialmente d'accordo. È il vecchio problema dell'uguaglianza: che cosa vuol dire? Dare a tutti la stessa cosa o fare in modo che, dando diverse persone in situazioni diverse, si tende verso un'omogenizzazione del risultato? Ne parliamo da decine e decine di anni. Io credo che ci sia. È un paese strano il nostro: noi abbiamo una crescita esponenziale di partite IVA, una diminuzione ormai al lumicino di persone a tempo indeterminato con un contratto tradizionale e i sindacati che si occupano solo ed esclusivamente di quest'ultima categoria. Gli altri sono assolutamente inesistenti. È un paese originale, un paese in cui ci sono dei cambiamenti sociali evidenti sotto gli occhi di tutti e non traiamo alcuna conclusione da questo. Noi dovremmo oggi avere il più importante sindacato italiano, quello delle partite IVA, dei giovani, di quelli estromessi dal mercato del lavoro, di quelli che sono stati esodati e si inventano una nuova professione. Non c'è niente di tutto questo. E quindi sì, sono d'accordo, noi dovremmo ripensare delle regole per un'uguaglianza effettiva, non per un'uguaglianza di partenza, perché l'uguaglianza di partenza poi porta alla fine a dei diritti molto diversi, ma in campo sanitario andiamo verso il doppio livello, in campo sociale già ci siamo, essere anziani poveri e essere anziani ricchi non è la stessa cosa, essere bambini poveri e essere bambini ricchi è molto molto diverso in termini di diritto di quello che si ha. Poi il discorso è complicato, bisognerebbe vedere servizio per servizio. Lei ha usato una formula che a me piace molto: per la definizione dei diritti conta quello che si ha più che quello che si è. Il vecchio orizzonte della realizzazione dei diritti e dell'eguaglianza era che l'essere ontologicamente era costitutivo di un orizzonte per cui la realizzazione, la traduzione concreta di diritti fondamentali sociali, pensiamo a tutta la prima parte programmatica della nostra Costituzione, era ontologicamente incardinata sull'orizzonte da realizzare. In realtà noi viviamo un mondo nel quale non è l'essere cittadini a prescindere dalla proprietà che definisce ciò che davvero eserciti in concreto, perché da giovane, per le regole che abbiamo dato, non lavori. Da giovane non potrai versare contributi, avrai comunque delle leggi di pensione diverse da chi era anziano. Allora, domanda a Massarenti. Qui c'è un problema in cui la cosa in cui sei molto specializzato, l'epistemologia, per così dire, cioè tutto ciò che ha a che vedere con come si fa a dare nomi a dei fenomeni e a studiarli nella loro evoluzione, impatta sulla filosofia, allo stato puro e alla filosofia politica, che è il diritto. Non è che nel nostro paese siamo rimasti un po' più indietro che negli altri, proprio dal punto di vista culturale, lasciamo perdere la politica adesso, dal punto di vista culturale, per dare alle cose i nomi che hanno davvero, e noi continuiamo a considerare il diritto all'eguaglianza in generale con un orizzonte novecentesco, a prescindere dal fatto che poi in Italia abbiamo realizzato una cosa in cui dovremmo chiamare con nomi diversi diritti che non possono essere uguali, perché non sono incardinati su ciò che si è cittadini, ma su ciò che si ha. E noi abbiamo per norme, per leggi stabilito che chi è giovane non può avere quello che aveva prima, e quindi dovremmo spezzare anche la definizione di eguaglianza. Non è un problema proprio anche un po' culturale, accademico in questo, prima che politico? Sì, è un problema culturale e riguarda anche la storia del nostro paese, il tipo di cultura politica del nostro paese, ma anche di cultura in senso generale. Negli Stati Uniti, dove è nato il libertarismo di cui parlavamo poco fa, in realtà c'è una Costituzione che unisce molto bene, per parlare proprio in termini di disciplina, una filosofia politica con una epistemologia che peraltro ha a che fare anche con le modalità della crescita della conoscenza e anche con le modalità del merito di cui prima si parlava. E quella Costituzione descrive molto bene i diritti, alcuni diritti fondamentali, e le società che funzionano meglio, le società che hanno anche maggiore efficienza economica, sono quelle che garantiscono meglio alcuni diritti fondamentali, e non a caso proprio il diritto di proprietà è quello più fondamentale di tutti, verrebbe da dire. Questo non significa essere conservatori, cioè non è una questione, certo, di essere di destra o di sinistra, significa avere un fondamento solido delle nostre pratiche sociali e quindi anche evitare quel tipo di diseguaglianze che poi quasi sempre sono frutto di una ci sono diseguaglianze frutto di una di un malinteso su che cosa deve essere l'eguaglianza, e spesso sono effetti perversi di politiche appunto egualitarie, e questo è uno dei paradossi, o meglio è un genere di paradossi che noi troviamo continuamente. Per esempio, il diritto allo studio genera maggiori diseguaglianze che il diritto all'università, ad andare tutti all'università, può generare molte più diseguaglianze che non invece avere un sistema, come diceva Planeta, in cui io so che esiste un'eccellenza e la posso raggiungere con dei mezzi che riguardano soprattutto le mie capacità e il merito che io riesco a dimostrare. Però al fondo di tutto questo, per rispondere alla domanda, c'è proprio una questione di che cosa vogliamo mettere al primo posto. Le società che sanno garantire meglio il diritto di proprietà in genere crescono meglio e hanno meno di questi paradossi che si generano. Le società, questo non vuole dire che gli altri diritti sono meno importanti, no, certo, ma derivano da questo. Anche, e per cui anche noi nell'albero della gerarchia invece dell'importanza dei fondamentali dei diritti siamo abituati per lo più nel nostro paese a considerare che non è così, che la proprietà era il vecchio orizzonte dei diritti dei landlord liberali latifondisti, mentre invece i diritti sociali hanno un fondamento che è completamente diverso dalla proprietà. Tentiamo di spiegarvi invece che di aver dimenticato quella radicale impostazione per cui la libertà si esprime innanzitutto attraverso la proprietà, oltre che il diritto alla vita, la libertà, sono questi due pilastri fondamentali, implica poi un approccio così ideologico per cui i fenomeni assumono nomi diversi dalle cose che sono diventati. C'è l'orizzonte della pura socialità dei diritti, svincolati dall'individuo e dalla persona, alla fine non è in grado di portare a casa le promesse che ha fatto. E a questo punto a me non resta che ringraziare Alessandro Battistella e Armando Massarenti, perché adesso andiamo al traffico e poi sentiremo le opinioni di voi ascoltatori. Sentite che cosa ci ha detto Maria Grazia Grezzi della CGIL Lombardia. Diritti, penso che sia un'ingiustizia intollerabile che oltre 1 milione di persone, di cui la stragrande maggioranza donne, dall'età variabile dai 56 anni in avanti, abbia perso il diritto ad andare in pensione con 15 anni di contributi interamente versati. Era Maria Grazia Ghezzi, la CGIL Lombardia. Sentiamo un po' gli ascoltatori come rispondono alla domanda sui diritti fondamentali. Cominciamo con Giorgio da Pisa. Tu da quale diritto cominceresti nel dire rimettiamo il puntino sulle i? Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei solamente un piccolo diritto, di avere una legge che dice che chi sperpera o ruba i soldi dello Stato, cioè i soldi nostri, si deve fare 20 anni di galera senza sconti. Ah, però è una insomma di quelli. E poi da lì si riparte a tutto. E di lì si riparte a tutto. Intanto 20 anni di galera. Certo. Vediamo se Fiorito poi inizia a rimpiangere persino il PDL. Paolo dalla provincia di Bologna, prego Paolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sento parlare continuamente di diritti e di soluzioni, eccetera, eccetera. Ma è possibile mai che tutte queste soluzioni proposte non siano applicate? Secondo me bisogna ricreare un buon cittadino, e per ricreare un buon cittadino ci vuole istruzione ed educazione, cose che richiedono un paio di generazioni come minimo. Allora, e qui dico una bestemmia, una dittatura democratica che avesse il potere di applicare la legge e le pene con poche regole ma chiare, non sarebbe poi una soluzione, sarebbe una soluzione così estemporanea? Io sono anni che penso che la nostra cultura non ci porta lontano, perché succedono gli scandali, si ripetono, si ripeteranno ancora, non risolviamo niente. Il problema adesso non è far rispettare i diritti, è come fare ripartire una coscienza civica che ci porti nel tempo, ci vorranno generazioni, a non subire quello che sta succedendo e poi dopo fra 6 mesi dimenticarcene. Allora, Antonio, lei ha detto due cose, perché prima ha detto ripartire dal basso, ma poi ha detto dittatura democratica. Ecco, io la dittatura democratica, siccome le minoranze organizzate... No, aspetti, mi faccia dire, perché la tradizione giacobina, per così dire, o la tradizione cromwelliana, c'è anche nella rivoluzione britannica questa cosa della dittatura democratica, cioè gli Ironsides, il potere attraverso l'esercito puritano, è questa roba qua. Io diffido molto di ciò che la storia ci ha dimostrato essere poi il portato della dittatura democratica, perché le minoranze pro tempore, che incardinano il principio di illuminare poi il resto, di solito lo fanno con la sopraffazione e con la violenza. Almeno questo è il bilancio di ciò che abbiamo prodotto nel resto del mondo con la nostra convinzione superomista europea. Ed è una storia lunga, perché ripeto, i puritani lo facevano per religione ma tagliavano le teste, i giacobini lo hanno fatto per la rivoluzione e l'ente supremo ma tagliavano le teste, i nazisti lo facevano convinti di una teoria nazional razziale ma gassavano la gente, e insomma Stalin faceva tutte le cose sommate e moltiplicate. Io di dittature democratiche diffido molto, in quanto liberal persona io di poteri assoluti non ne voglio da nessuno, tanto meno ai ladri pro tempore che parlano in nome dell'interesse collettivo. Mi perdoni, ma ho una specie di diffidenza. Ligio da Roma, che ne pensa Ligio? Sì, buongiorno a tutti quanti. Ma io dico semplicemente questo, vuol dire che il diritto che a me sembra più negato e che quindi dovrebbe essere riconosciuto, sì, è il diritto di cittadinanza. Ah. Cioè, io sono un cittadino, quindi un abitante di una città. Se solamente i miei diritti che derivano dall'aver espletato un dovere, che è quello chiaramente di pagare le tasse, partecipare, sì, alla vita dell'amministrazione, non mi viene riconosciuto specialmente in servizi, ecco che comincia la prima negazione dei diritti più elementari. Pago per avere cosa? Un servizio che non viene dato. Pago la nettezza urbana, faccio il mio dovere, quindi diciamo mi auguro che mi sia rispettato il diritto di avere la città pulita, e la città non è pulita. Pago per avere un trasporto pubblico efficiente e il trasporto pubblico non è efficiente. Stop, Ligio, hai detto quello che potevi, ma adesso mancano solo 5 secondi. Flash, riusciremo a essere più proprietari e più consapevoli, Armando Massarenti?